in principio ci si affidava all'iniziativa personale o al più a quella dei propri cari, sul cruscotto dell'automobile, affinché chi la guidava sottraesse almeno la propria responsabilità agli eventi che l'attendevano. Figuravano fotografie di mogli e di figli sotto cui stava l'implorazione pensa a me o pensa a noi. Nei cruscotti più pii non mancava neppure l'immagine di San Cristoforo, che grande e grosso, così come ce lo tramandano cronache leggendarie, fece a tempo a diventare protettore dei viandanti prima di venir decapitato da Decio intorno all'anno 250. Perché poi sia passato dai viandanti agli automobilisti si spiega soltanto con il vezzo seccantissimo, il vezzo dei più, santi compresi, di assecondare il vento che tira e passare a protettore del più forte. Soltanto in un secondo momento, comunque, il solerte ufficio del monito se l'è accaparrato lo Stato. Qua e là, sulle autostrade hanno cominciato a crescere cartellonistiche ad hoc del tipo non correre, chi va piano va sano e va lontano, pensa ai tuoi cari. Anche la semicontraddittoria domanda: hai controllato i tuoi freni? Così uno dice: sì, li ho appena controllati e posso correre quanto mi pare, no? Siamo ancora afflitti da queste premurose comunicazioni rivolteci peraltro da quegli stessi che costruiscono e mettono in vendita automobili che superano di 200 km l'ora il limite massimo di velocità consentita. Nei mesi scorsi avevo dovuto anche constatarne la meccanizzazione. Mio figlio ha comprato una tessera via card nella vaga speranza di evitare le code per i pagamenti dei pedaggi autostradali, no? E dopo aver introdotto la tesserina nell'apposita fessura ce la siamo ripresa durante il risputo, diciamo così, e al contempo abbiamo ascoltato una voce metallicamente femminile che ci ha raccomandato: guidate con prudenza. Vabbè. Bene, oggi qualcosa è cambiato. Sarà la ritrovata pace sociale, sarà la maggior fiducia di chi comanda in chi ubbidisce, sarà che il clima ideologico è cambiato senza che me ne accorgessi, sarà che la premura per la vita degli automobilisti incauti era fasulla, sarà che l'istituto della previdenza sociale ha necessità di un numero maggiore di vittime della strada per assestare i propri bilanci, sarà che quando si tratta di fare la lira non si guarda in faccia a nessuno e non si ha più vergogna di nulla. Sarà quel che vi pare, ma al posto di guidate con prudenza, ora la voce, che nel frattempo è diventata metallicamente maschile, dice: a Natale regalate Moulinex, a Natale regalate Moulinex. Insomma, anche la vocazione all'educazione stradale è andata a sbattere contro il proprio limite. Che va con le sue macchinine brum brum sulle piccole autostrade boom, sotto cieli di cristallo blu blu. È l'Italia che va, milioni di sigarette accese, miliardi di totocalci boom, la borsa che sale che scende, weekend che durano un mese. Da quanto tempo non ti vedo più, sei andato in Kenya, anche tu no. Se devo dirti la verità, ma ci andrò, tutti che partono nessuno sta, almeno tu rimani qua, no. Appena fatto le valigie, tra un'ora, caro, partirò. Strade città sono deserte, è un buio che ci si perde, sono chiusi anche i bar. È un'Italia che va. Sono sull'autobus, sulla 57. Ai. Costeggiamo l'arena, vicino a casa tua, Oliva. Alla fermata, dalla porta davanti, fa capolino un anziano signore che peraltro non sembra averci nessuna intenzione di salire e rimane ben fermo sul marciapiede. Glielo dica al conducente che l'ha preceduta. Si rivolge ad alta voce al conducente. Glielo dica che è un delinquente, glielo dica. Il tono di voce è salito. Fa una pausa. L'autista tace e pare intenzionato a tacere. Categoria D! Urla allora l'anziano signore e le porte gli si chiudono in faccia. Non saprò mai a che categoria appartiene l'autista. Allora, ha cominciato con un singolo colpevole. Il conducente, che l'ha preceduta, e non ricevendo soddisfazione, non ricevendo un qualsivoglia attestato né di stima né di condivisione, l'anziano utente di mezzi pubblici ha subito alzato il tiro. Ha passato le colpe del primo conducente subito al secondo e quindi all'intera categoria di tutti i conducenti. Non ho potuto seguirne le argomentazioni successive, ma so già che fra sé e sé, magari continuando a voce alta in cerca di qualche consenso, so già che è passato a concetti del tipo le cose non vanno più come una volta sì che c'era il rispetto, con tutti i soldi che ci rubano con le tasse, oggi tutto va a rotoli e nessuno fa niente, eccetera eccetera. Dal singolo caso, gradualmente ma alla svelta, passa al mondo intero, perché nell'inascoltato c'è una tendenza a coinvolgere cerchie sempre più ampie nella colpa oggetto della sua denuncia, come peraltro in chi perde c'è una tendenza ad alzare la posta.